l'eccellenza nel comportamento, al-ihsan. Disse, che Allah lo benedica e lo vingloria, l'eccellenza nel comportamento è l'adorazione di Allah, eseguita come se tu lo vedessi, anche se tu non vedi lui, lui vede te. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Fine del primo capitolo.